America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. The United States will continue to lead this global coalition. We are intensifying our strategy on all fronts with local partners on the ground. We are going to keep on rolling back ISIL in Iraq and in Syria and take out more of their leaders and commanders so that they do not threaten us. And we will destroy this terrorist organization. Barack Obama ha chiuso la tappa asiatica del suo viaggio all'estero, che l'ha portato anche in Turchia, come ricorderete, e prima di rientrare a Washington ha tenuto una conferenza stampa da Kuala Lumpur in Malesia e ha parlato delle sfide davanti a noi. La guerra contro il terrorismo dell'ISIS, si è impegnato ad andare avanti fino in fondo per sconfiggere questi terroristi, i problemi climatici. A Parigi la settimana prossima parte un vertice difficile per rispondere al global warming, l'immigrazione, la questione dei rifugiati, il traffico di minorenni, insomma ferite aperte, grandi ferite aperte che mi portano alla copertina di questa settimana che dedico al Thanksgiving, la festa del ringraziamento che tutta l'America celebrerà giovedì prossimo. L'intera settimana, vi dicevo, sarà dominata dal Thanksgiving sotto ogni punto di vista. Sicurezza al massimo per la tradizionale parata di Macy's a New York, di cui vi ho appena fatto ascoltare un audio dell'anno scorso, viaggi, riunioni familiari, con un interesse anche sul piano economico, visto che venerdì, il Black Friday, come viene chiamato, ci saranno vendite scontate subito dopo il Thanksgiving, vendite scontate che lanciano il periodo degli acquisti natalizi. Si attendono vendite, pensate, solo per quella giornata fra i 50 e i 60 miliardi di dollari. Ma al di là delle curiosità statistiche divertenti, interessanti, appunto curiose, di cui vi darò dettagli nei prossimi giorni, la natura di questa festa, come dire, la riflessione attorno a questa settimana è un'altra. Il Thanksgiving con il ricco pranzo a base di tacchino è la festa di tutti gli americani, di tutti gli immigrati americani, non importa di quale religione, perché celebra i valori di libertà, di altruismo, di restituzione, di apertura, di famiglia, di nuova frontiera che hanno fatto grande l'America. Quest'anno, vi dicevo, pensando alla copertina della settimana, quest'anno il Thanksgiving dovremmo celebrarlo tutti noi, perché se ci appassioniamo a una festa ludica e irriverente come Halloween, magari per una volta anche noi questa settimana potremmo riflettere sui valori del ringraziamento, valori che i padri pellegrini, attenzione, protestanti dissidenti in fuga da persecuzioni religiose nel Regno Unito, valori, vi dicevo, che celebrarono arrivando in questa nuova terra il 21 novembre del 1620. E dunque, con spirito laico, celebriamo anche noi questa settimana la nostra continuità, perché nonostante le sfide di cui ci ha parlato Obama dall'Asia, nonostante i timori che possiamo avere per via del terrorismo strisciante, nonostante la matrice di estremismo religioso che ci vuole portare indietro nei secoli, restiamo prima di tutto figlie e figli dell'illuminismo. Vero, le sfide le abbiamo sempre avute, le avremo sempre, ma quelle di adesso, del nostro tempo, quelle che ha riassunto Obama, pensate, sarebbero enormi prese una per una. Immaginiamo la complessità delle sfide nel loro insieme. Impaurirsi, starsene a casa, chiudere la porta disperati in fuga, non ci appartiene. Celebriamo anche noi questo Thanksgiving americano contro le forze dell'oscurantismo che vogliono distruggere prima di tutto i nostri valori. Esprimiamo gratitudine, per quanto imperfetto, per quello che abbiamo, senza mai fare un passo indietro, perché quello sarebbe il primo segnale di cedimento contro chi ci vuole distruggere nel nostro spirito. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, direi copertina della settimana, il Thanksgiving, celebriamola con Johnny Cash, Thanksgiving Prayer. We've come to the time in the season when family and friends gather near to offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the year, to join hands and thank the Creator Now when Thanksgiving is due, and this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. I'm grateful for the laughter of children, the sun and the wind and the rain, the color of blue in your sweet eyes, the sight of a highball and train, the moonrise over a prairie, and oh love that you've made new. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!